Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Salve e un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità e nel suo piccolo lotta per il cambiamento degli attuali paradigmi culturali, politici, economici, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. Questa chiave di lettura ci permette di osservare la nostra società da un punto di vista insolito, spesso illuminante. In questa puntata parleremo di orsi e lupi, di minacce incombenti sugli elefanti africani, di animali in fuga, dei tanti effetti nocivi ma trascurati della pratica della caccia. La colonna sonora di questa puntata, che è la numero 692, è a cura di Gianluca Masala. La ricetta della settimana, come al solito, di Gabriele Palloni. Continua in Trentino la saga dell'orsa JJ4, prigioniera da qualche settimana al Casteller e oggetto della furia del presidente della provincia autonoma di Trento, il leghista Maurizio Fugatti, sempre più deciso del tutto, irrazionalmente, a ucciderla. Anche la seconda ordinanza di abbattimento firmata da Fugatti è stata sospesa dal TAR, in attesa di una decisione definitiva sul merito dell'istanza. Ma si tratta di una vicenda, questa dell'orsa, che ormai trascende gli aspetti giuridici. Per Fugatti il caso è squisitamente politico e la sua esibita volontà di dare la morte a un animale ormai ridotto all'impotenza è un messaggio rivolto soprattutto agli elettori. Una prova di forza, un'esibizione di muscoli e di maschia attitudine. Nella totale incuranza delle osservazioni e dei consigli, quasi unanimi da parte di tutti gli addetti ai lavori, che dovrebbero spingerlo a scartare l'ipotesi dell'esecuzione dell'orsa responsabile della morte di Andrea Papi. Un'esecuzione che sarebbe inutile, se non a fini meramente vendicativi. Ma questo, evidentemente, è ciò a cui punta Fugatti. La questione del rapporto con gli animali selvatici, del resto, sta acquisendo una sua centralità, una centralità politica, culturale, per ciò che svela delle nostre società, del nostro rapporto con gli altri esseri viventi, in una fase storica particolarmente delicata qual è l'attuale, visto che siamo alle prese con emergenze climatiche, belliche, potremmo dire di specie. Da quello che vediamo c'è un'evidente difficoltà di smettere la distruttiva abitudine al dominio che le nostre società hanno ereditato dal passato e che negli ultimi decenni è stata addirittura esasperata, di pari passo con la crisi di civiltà che ci ha portato sull'orlo del vulcano. Notizie inquietanti arrivano non solo dal Trentino, ma anche dall'estero. In Spagna, per esempio, tiene banco uno scontro in atto riguardante i lupi. El País, il maggiore quotidiano del paese, ha dato conto di una notizia che sembra l'eco di altre arrivate in questi anni dai nostri Appennini, ma anche dalla Maremma toscana. Due impiegati del comune di Ponga, nelle Asturie, ha riferito El País, hanno trovato due teste di lupo, un maschio e una femmina, sulla porta del municipio. Un gesto orribile. Chiaro il messaggio di tipo mafioso. C'è chi non vuole lupi liberi nei boschi circostanti e chiede alle autorità di agire, mostrando in ogni caso di poter fare da sé, uccidendo. Il conflitto in questa zona delle Asturie è nato da tempo, ma sembra che si sia aggravato nel settembre 2021, quando il lupo è stato incluso a livello nazionale nell'elenco delle specie selvatiche collocate sotto il regime di protezione speciale. La cattura del lupo è quindi vietata in tutto il territorio spagnolo ed è consentita solo in casi eccezionali. Gli allevatori e i governi locali di Castiglia, Galizia, Asturie, Cantabria, cioè l'area in cui vive il 95% della popolazione di lupi in Spagna, hanno fortemente contestato la misura di protezione decisa dal governo. E da allora la presenza del lupo e la sua gestione è una questione politica aperta. Il messaggio mafioso recapitato al municipio di Ponga purtroppo non è isolato. Episodi simili erano avvenuti anche in precedenza. Secondo quanto riporta il giornale spagnolo, Mercedes Cruzado, segretario generale di una delle principali organizzazioni agrarie del paese, denuncia il clima di tensione che esiste nella zona e dice che la gente è molto arrabbiata. Stiamo subendo dei danni e ci sentiamo abbandonati. Cruzado naturalmente respinge l'avvertimento mafioso recapitato al comune di Ponga e precisa che gli agricoltori non chiedono la scomparsa della specie ma interventi a protezione delle coltivazioni e dei coltivatori. Il paese ha chiesto anche un parere di un esperto, Juan Carlos Blanco, secondo il quale la popolazione di lupi non è cresciuta negli ultimi tempi, per cui l'allarme di agricoltori e allevatori non sembrerebbe fondato. Non esiste, cioè, alcuna emergenza. C'è semmai da affrontare con disciplina e strumenti adeguati la gestione ordinaria della relazione con gli animali selvatici. In questo campo un ruolo decisivo, come abbiamo visto in Trentino, è giocato inevitabilmente dalle autorità locali, che dovrebbero favorire l'informazione e la formazione della cittadinanza, come non è avvenuto in Trentino e come poco sta avvenendo, a quanto sembra, anche nelle Asturie. Ignacio Martinez, presidente dell'Associazione per la conservazione e lo studio del lupo iberico, a questo proposito sostiene che il governo delle Asturie si sta mostrando tiepido e ipocrita. Insomma, non diremo che tutto il mondo è paese, ma ci pare sempre più evidente che una svolta culturale e politica sul rapporto fra le società umane e gli animali selvatici deve maturare al più presto, in Italia come nel resto d'Europa. Andiamo in Africa e parliamo di elefanti, animali simbolo del continente e animali simbolo, tout court. L'immaginario di tutti noi è popolato fin da bambini di elefanti. Siamo cresciuti con le immagini di questi straordinari e singolari animali, enormi, pesantissimi e però agili, simboli di forza e saggezza. Il loro destino oggi è però incerto. Le prossime generazioni umane potrebbero perdere familiarità con questa specie, minacciata ormai dall'estinzione. Un allarme specifico arriva dal WWF, che ricorda i dati dell'ultimo censimento compiuto in Africa, dove attualmente vivono circa 415.000 elefanti, una cifra minima rispetto ai 12 milioni stimati un secolo fa. Si tratta di un'ecatombe, di uno sterminio, letteralmente. Gli zoologi distinguono in Africa due diverse specie di elefanti, una, l'elefante di savana, l'oxodonta africana, è classificata come in pericolo. L'altra, l'elefante di foresta, l'oxodonta ciclotis, sta ancora peggio ed è stata inserita nella categoria in pericolo critico, ossia con un elevato rischio di estinzione a breve termine. Il bracconaggio oggi, a quanto pare, resta la causa principale del declino numerico di entrambe le specie di elefanti africani. Si stima che ogni anno vengano uccisi circa 20.000 elefanti per il commercio illegale di avorio. A questa cifra si aggiungono le uccisioni generate dai conflitti fra gli elefanti e le comunità locali, in crescita a causa della trasformazione di aree di foresta e savana in coltivazioni. È su queste basi, cioè sulla constatazione che in 100 anni si è perso oltre il 95% degli elefanti africani, che il WWF ha lanciato la sua campagna SOS Elefante, che mira a raccogliere fondi per progetti di conservazione della specie. Non può sfuggire la gravità e il paradosso di tutto ciò. Viviamo in una società così distruttiva e così incapace di correggere il proprio incedere che occorre destinare alcune ristrette aree di territorio alla specifica protezione di questo o quell'animale, senza tuttavia riuscire a incidere sulle cause delle minacce di estinzione, ossia il consumo di suolo, il bracconaggio, il commercio illegale. C'è qualcosa di disperante in tutto questo e notizie e campagne come quelle diffuse e pensate dal WWF dovrebbero favorire una riflessione e una critica profonda agli attuali assetti economici e istituzionali. إن جالنا حوا تغبرتنا حوا حا حا حي Quando si parla di caccia è facile imbattersi nella retorica, in voga negli ultimi anni nel mondo venatorio, secondo la quale chi frequenta i boschi per sparare e ferire, mutilare, uccidere gli animali selvatici che li abitano sarebbe un ecologista, un amico e amante della natura. Niente di più falso e manipolatorio, evidentemente. A riprova di ciò, se mai servissero davvero delle conferme, c'è una notizia riferita ancora dal WWF riguardante la provincia di Bergamo. Nel centro di recupero animali selvatici gestito dall'associazione in Val Predina è arrivata nei giorni scorsi una giovane aquila femmina, portatavi dalla polizia provinciale bresciana, che l'aveva trovata in gravi difficoltà, con evidenti sintomi di intossicazione. Ebbene, l'aquila è morta nel giro di poche ore, a causa, scrive il WWF in una nota, del micidiale saturnismo, cioè l'avvelenamento da piombo provocato dalla diffusione dei pallini da caccia. Proprio così, i nostri boschi sono inquinati gravemente dai pallini di piombo sparati dai cacciatori. Altro che ecologismo fatto di camminate col fucile a tracolla. Che atroce e vile menzogna. L'aquila di cui stiamo parlando è stata inizialmente sottoposta a terapie specifiche e controlli radiografici ed ematici per escludere fratture o patologie di tipo virale. L'esito degli esami, ha spiegato il WWF bergamasco, non ha lasciato dubbi. Altissimi livelli di piombo nel sangue, 1000 microgrammi sul litro. La gravità delle condizioni dell'aquila ha reso vane le cure. Il rapace è deceduto poco più di 24 ore dopo il ricovero e l'autopsia ha evidenziato alti livelli di piombo anche nelle ossa e nel cervello dell'animale, mostrando che si trattava di una intossicazione non solo acuta ma anche cronica. Il WWF spiega che l'avvelenamento degli animali selvatici, in particolare rapaci e avvoltoi, è un problema diffuso in Italia e si stima che ogni anno in Europa l'avvelenamento da piombo provochi 1 milione di decessi di uccelli acquatici, cui devono aggiungersi i danni riportati dalle specie che si nutrono di animali contaminati, come appunto i rapaci. Ci sono ovviamente anche rischi per la salute umana, ignorati anche queste nel dibattito sulla caccia. Ma un vero dibattito pubblico in realtà non esiste e bisognerebbe invece riprenderlo con urgenza. Ci aiuterebbe anche a ricalibrare il rapporto fra noi umani e gli altri esseri viventi. Come si vede, si torna sempre lì. We don't die. Abbiamo spesso parlato nella nostra trasmissione degli animali in fuga, cioè animali prigionieri di allevamenti, circhi e altre situazioni di detenzione che rompono le catene e se ne vanno, incuranti dei rischi e delle difficoltà, quasi sempre proibitive, della fuga stessa. Sono casi che a nostro avviso documentano la profonda ansia di libertà e l'ancora più profonda sofferenza di questi animali soggiogati e privati dei loro autentici bisogni fondamentali. Le fughe sono dunque per noi storie esemplari, parlano del desiderio di libertà e di autonomia che alberga in ogni essere vivente. Camilla Lattanzi ci racconta un caso avvenuto di recente in Italia. Si va a Genova, dove un lama fugge da un circo e vengono incolpati gli animalisti. Stiamo parlando di un lama il cui nome è Pino, però non sappiamo se questo nome gli è stato dato dai circensi. Quando ha visto la porta della gabbia aperta, non ci ha pensato due volte ed è corso fuori. Il suo circo, il Madagascar di Maya Orfei, è attendato vicino alla passeggiata a mare di Corso Italia e così Pino prima ha vagato nel quartiere chic di Genova, chiamato La Foce, poi ha deciso di imboccare la via del jogging, dove i genovesi la domenica mattina vanno a correre. Quasi sicuramente il lama era terrorizzato e cercava solo il modo di fuggire più lontano possibile da quel tendone da circo sotto il quale ogni sera viene costretto a esibirsi davanti agli schiamazzi e alle foto scattate dal pubblico pagante. Il lama ha continuato a galoppare fino a quando è stato fermato dai carabinieri e riportato in gabbia, in quella gabbia dove è costretto a sopravvivere. Il circo accusa gli animalisti di essersi intrufolati tra le scuderie del circo e di avere aperto i cancelli e le protezioni. A stretto giro le associazioni Gaia, Love e Animalisti Genova hanno rispedito al mittente le accuse, affermando che di casi di fuga da parte di animali dai serragli dei circhi sono piene le cronache di questi anni in tutta Italia. Questa notizia denota invece carenze organizzative interne del circo. Da parte nostra, come redazione di Restiamo Animali, ci sentiamo idealmente al fianco di tutti gli animali che fuggono da situazioni di sfruttamento e di dominio e che cercano correndo un modo per affermare la loro libertà, siano essi vittime di allevamenti, macelli, circhi, caccia, sperimentazione scientifica, corride e tutte le altre abominevoli trovate umane per assoggettare e sfruttare il resto del vivente. This girl I know needs some shelter, but she don't believe anyone can help her. She's doing so much harm, doing so much damage, but you don't want to get involved. You tell her she can't manage, that you can't change the way she feels, but you could put your arms around. Anche questa settimana abbiamo sfidato il nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni, autore del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, a pensare una ricetta prendendo spunto dalle notizie della puntata. Sentiamo. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Per scongiurare il pericolo di estinzione degli elefanti africani, oggi vi racconto una ricetta tipica congolese, il saka saka, rivista e corretta in chiave 100% vegetale. Gli ingredienti per 4 persone per il saka saka sono 800 g di foglie di manioca, che potete trovare nei negozi alimentari etnici, una cipolla, uno spicchio di aglio, un porro, una melanzana, un peperone verde, 3 cucchiai di burro di arachide, 25 ml di olio di arachidi, un cucchiaino di alghe wakame. In una pentola fate cuocere le foglie di manioca in un litro di acqua a fuoco lento per circa 30 minuti. Nel frattempo pulite e tritate l'aglio e la cipolla, tagliate la melanzana, il porro e il peperone a pezzetti piuttosto grossi. Nella pentola con le foglie di manioca aggiungete l'olio di arachidi, la cipolla, l'aglio, la melanzana, il porro e il burro di arachidi che avrete stemperato in poca acqua tiepida. Lasciate cuocere per circa un'ora a fuoco lento facendo attenzione che non si attacchi. Unite il peperone e l'alga wakame e fate cuocere ancora una ventina di minuti. Servite con del riso e delle rondelle di platano fritte. Pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They pay paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum, and they charge the people a dollar and a half just to see them. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Please, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They pay paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They pay paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? Abbiamo parlato di elefanti, di animali in fuga, e allora vogliamo chiudere questa puntata raccontando la triste, violenta, ma emblematica storia di Black Diamond, prendendola da un libro che abbiamo citato altre volte in passate puntate. Si tratta di Cronache ribelli, almanacco di utopie reali, identità indelebili e rinnovata memoria. 250 storie di lotta, coraggio e amore. Un libro pubblicato da CR Edizioni. È un repertorio che racconta fatti storici, personaggi, vicende di lotta e liberazione, includendo anche animali non umani. Leggiamo dunque la storia di Black Diamond. Sabato 12 ottobre 1929, Corsicana, Texas. Vicino alla stazione, una grande folla si è assiepata per vedere lo scarico degli animali del circo Barnes, appena arrivato in città. Fra di loro c'è Black Diamond, un elefante indiano di 9 tonnellate per 4 metri di altezza. Diamante Nero però non ha una buona reputazione. Non è docile, non è facile, non è servizievole. I suoi domatori dicono che è collerico, isterico, rabbioso. Semplicemente si ribella alla condizione di prigionia che lo perseguita da tanti anni, e questo gli costa caro. Nel 1927 gli segano le zampe e poco dopo gli mettono una grossa cintura e una sbarra di ferro per limitare l'uso del tronco. Infine, in ogni spostamento lo legano con pesanti catene a due elefantesse mansuete affinché non tenti la fuga. Anche quel giorno a Corsicana avrebbe dovuto sfilare con le stesse modalità. Ma la storia prende una piega diversa. Quando Black Diamond viene tirato fuori dalla gabbia, vede il suo ex domatore, Carly Pritchett, che per 7 anni lo aveva addestrato, e la sua datrice di lavoro, Eva Donohoe. L'elefante perde subito le staffe, getta Pritchett a terra rompendogli il braccio e si avventa sulla signora Donohoe facendola cadere e colpendola con violenza, fino ad ucciderla. Solo con grandi difficoltà i domatori del circo riescono a incatenare il pachiderma. La gente di Corsicana finisce così per assistere a ben altro spettacolo rispetto a quello che si era immaginata. Tutti adesso vogliono la morte di Black Diamond. Decidono di avvelenarlo con delle arance, il suo cibo preferito, corrette al cianuro, ma il gigante nero le rifiuta. 4 giorni dopo, i funzionari del circo ingaggiano 5 tiratori esperti. Portano Diamante Nero fuori città, lo legano a 3 grandi alberi e gli incatenano le zampe. Sotto gli occhi di qualche curioso inizia la fucilazione. Ci vogliono 155 colpi per spegnere la vita che corre dentro Black Diamond. Poi inizia lo scempio del suo corpo. Un veterinario di Houston si porta via la testa del gigante, che finisce nel Museo della Scienza di Herman Park con la notazione «Elefante assassino». Al Evans, un cantautore, ha dedicato una canzone a questa storia. In una strofa dice: «Il mio nome è Black Diamond, il circo non mi può domare». Con questa triste ma significativa storia finisce la puntata di Restiamo Animali. Vi saluta la redazione, composta da Camilla Lattanzi, Francesca De Matteis, Roberta Marino, Anna Granata, Gianluca Masala, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Gianni Ferrarotti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stessa ora, stesse onde. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.